Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come sarà il supermercato del futuro? Tra scaffali e carrelli intelligenti, come cambierà il nostro modo di fare la spesa? È il tema dell'approfondimento che vi vogliamo riproporre in questo nuovo appuntamento con l'antologia estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nella seconda parte, dedicata come sempre al focus sui trend, torniamo invece a parlare di consumi necessari quando il limite fa tendenza. La borsa della spesa. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice: tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Come mai c'è tanta gente qui? Penso per me molto sia dovuto all'assortimento. Il cliente entra da noi e ci trova tutto. Spaghetti a 150 lire, carne, frutta, verdura, tutto fino al caviale e l'aragosta. E questo è molto importante perché si risparmia tempo e denaro. Questo oggi, fra 1000-2000 anni, anche i supermercati, chissà, saranno considerati curiosità di epoche primordiali. La spesa si ordinerà elettronicamente e i lauti pranzi dell'epoca si svolgeranno a base di pillole. Sarà un bene o un male, ai posteri appunto, l'ardua sentenza. Era il 1957, in Italia nascevano i primi supermercati e di colpo il futuro entrava nella spesa di tutti i giorni. Anche oggi, tra innovazioni già operative e scenari futuribili, la grande distribuzione si interroga sul supermercato del futuro. Come si sceglieranno i prodotti, come saranno esposti, quali informazioni riceveremo, come pagheremo. Troveremo una prima serie di risposte ad Expo 2015 nel padiglione sul Future Food District che Coop allestirà in collaborazione, pensate, con l'MIT di Boston e l'equipe di Carlo Ratti. Un accordo da 13 milioni di euro in base al quale Coop garantisce ad Expo la vendita di 1 milione di biglietti. Dai display che tracciano la provenienza dei prodotti agli scaffali intelligenti, dai carrelli in grado di suggerirci le ricette in base ai prodotti acquistati, ai punti vendita autosufficienti dal punto di vista energetico. Emanuela Montanari, capo progetto di Coop Italia. Premetto questo, che la tecnologia per noi sarà un mezzo, non potrà essere un fine, perché per noi comunque il supermercato è un luogo che deve avere una sua fisicità, è anche uno scambio di relazioni, quindi in qualche modo la tecnologia ci sarà. All'Expo dovrà anche fare spettacolo, mi sento di dire, tant'è che insomma poi ci confronteremo anche con Ratti dell'MIT, che su questo ha già fatto altri Expo. Deve essere tecnologia cosiddetta utile, intelligente, ci deve servire per fare la tracciabilità sui prodotti, ad esempio, dare informazioni mirate al consumatore, a seconda del consumatore che ho di fronte, fornire un'informazione piuttosto che un'altra, consentire di velocizzare la nostra spesa, consentire di velocizzare il nostro pagamento, ma non deve essere fine a se stessa, ecco. Un po' di tecnologia è già in giro da parecchio tempo e non è ancora stata implementata, quindi può essere questo il luogo in cui si verifica veramente la fattibilità di questo tipo di tecnologia. Altra tecnologia invece dovrà essere assolutamente nuova, impensabile, perché dovrà traguardare i prossimi 5-10 anni. Si parla molto dell'internet delle cose per quanto riguarda la tracciabilità, i prodotti taggati eccetera. Avrà un peso nel supermercato del futuro? Voi state già iniziando come Coop a sperimentare cose del genere o comunque a progettarle? Noi non stiamo ancora sperimentando, però a proposito di taggare, di internet delle cose, ci piacerebbe portare in questa esposizione, se fosse possibile, ad esempio una shopper intelligente che è taggata e che ci consente di capire dove finiscono i nostri prodotti, in modo anche simpatico e ludico per dare corpo a quest'idea all'interno dell'Expo. Quindi una sportina intelligente, una shoppers intelligente. Un altro dei temi che viene citato è il sistema di pagamento, la croce dei supermercati per velocizzarlo, per smaltire le code, eccetera. È un tema sentito anche da voi? È un tema sentito anche da noi, tant'è che ad oggi l'innovazione si è concentrata prevalentemente su questo tema. È un po', se vuole, per fare efficienza all'interno del punto vendita, perché il momento della cassa è sempre un momento di grande attesa e anche di grande utilizzo di risorse su un'attività ritenuta, diciamolo, poco qualificata e poco intelligente. Per cui già oggi molti dei nostri punti vendita ci sono casse self-scanning, self-checkout, dove il cliente è felice di passarsi i prodotti al posto della cassiera. È chiaro che l'evoluzione va sempre di più verso il mobile, per cui sistemi di pagamento contactless, dove tu passi semplicemente il cellulare e paghi, sono sicuramente già praticati. Su questo vorremmo poter portare qualcos'altro, se fosse possibile, perché effettivamente sui sistemi di pagamento è l'ambito in cui la tecnologia ha lavorato di più fino ad oggi. Ma che cosa ci aspetta nell'immediato futuro? Quali delle innovazioni di cui si parla saranno le prime ad essere operative? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Tiretta, fondatore di RetApps, società che ha realizzato la prima piattaforma per l'utilizzo dello smartphone nei punti vendita della grande distribuzione, anche come strumento di pagamento. Sicuramente il futuro è nel migliorare quella che è la relazione col cliente, e quindi dare la possibilità di essere sempre in contatto col cliente prima, durante e dopo la fase d'acquisto. In ognuno di questi momenti, c'è bisogno di un contatto particolare e specifico in base alle necessità, che possono essere la ricerca di un prodotto, la ricerca di un negozio o la ricerca di informazioni aggiuntive. Dopodiché, quando sono nel punto vendita, la possibilità di interagire con i prodotti, di farsi un carrello della spesa e di poter pagare in autonomia è sicuramente un vantaggio sia per il retailer sia per il consumatore che, stiamo sfruttando la tecnologia, ha un'esperienza d'acquisto migliore e più rapida. Ehi, John Anderton, stappa via da qui. Buongiorno, John Anderton. Avresti proprio bisogno di una Guinness adesso. Ogni giorno che passerai con noi sarà un giorno in più in paradiso. Ti serve una vacanza? Vieni a Tarzan. Stacca la spina, John Anderton. Dimentica i tuoi guai. Quando si parla di negozio, di supermercato del futuro, si pensa spesso, e viene anche molto citata, alla scena di Minority Report, in cui il protagonista viene riconosciuto dai cartelloni pubblicitari e riceve di conseguenza delle offerte su misura. Ecco, quello scenario è uno scenario possibile? Allora, è sicuramente uno scenario possibile. Non dimentichiamoci però che questo tipo di tecnologie non mirano al riconoscimento della persona in quanto tale, quindi andare anche in quelle che sono sfere di privacy, ma più che altro riconoscere le persone per quelli che sono i suoi comportamenti e diciamo i suoi attributi, inteso come maschio, femmina, razza, età. Tutti questi dati, se utilizzati in forma aggregata, in forma anonima, sono a vantaggio reciproco dei retailer e dei consumatori. Quindi personalmente non vedo, diciamo, un pericolo nell'utilizzare queste tecnologie. L'importante è che sono utilizzate sapientemente e nel rispetto e nella correttezza, diciamo, della privacy e dell'utilizzo dei dati. Quindi in termini di profilazione? Assolutamente sì, in termini di profilazione. Sempre avendo ben chiaro il rispetto della privacy. Spesso si dice che nei supermercati del futuro la merce non ci sarà neanche più. Ma diciamo che forse quello è uno scenario molto futuro e forse anche un po' troppo futuro. Io credo che ci voglia un giusto mix tra quello che è la possibilità di sfruttare l'online, il digitale, l'extended packaging, quindi tutto quello che sono le informazioni a supplemento, a complemento, diciamo, della proposizione d'acquisto, ma sicuramente degli store fisici, dei punti dove andare a ritirare la merce ci vorranno sempre, pensiamo anche al fresco e quindi a tutta quella che è la catena distributiva. Quindi sicuramente il futuro vedrà una maggiore interazione tra quello che è il mondo, chiamiamolo digitale, e il mondo più fisico, con un'adozione molto più puntuale e precisa di tutta quella che è la filiera, e quindi l'organizzazione del retailer sicuramente subirà delle modifiche. Da lì a dire che spariranno i punti vendita fisici la vedo sinceramente un po' difficile, quantomeno nel breve e nel medio termine. E proprio di futuro e di tecnologia negli scenari futuri del retail abbiamo parlato con Silvia Barbieri di Future Brand. Credo che nei supermercati del futuro il digitale ci sarà come componente di amplificazione di un'esperienza che cercheremo però per il suo valore sensoriale. Dal momento che avremo sempre più modo di compiere i nostri acquisti da casa e magari lo farà il frigo per noi attraverso, diciamo, delle soluzioni, dei facilitatori digitali, quando visiteremo fisicamente un luogo sarà per soddisfare invece un bisogno di fisicità e sensorialità. Ci sarà una estrema facilitazione di tutto ciò che è la dimensione del servizio, l'accessibilità, la possibilità appunto di soddisfare un bisogno di acquisto con grande facilità e anche la possibilità di ampliare quel bisogno attraverso la raccolta di informazioni, oltre alla tracciabilità anche tutta l'area della nutrizione, della dieta, del controllo alimentare, e tutto questo sarà molto facilmente fattibile da casa. Questo da una parte, e dall'altra usciremo di casa per avere fondamentalmente entertainment. Essere e avere. Troppo di tutto, oggi c'è troppo di tutto. Troppo di tutto, oggi c'è troppo di tutto. Troppo di tutto, oggi c'è troppo di tutto. Troppo di tutto, troppo di tutto. Ti giochi tutto, oggi ti giochi tutto. Ti giochi tutto, oggi ti giochi tutto. Ti giochi tutto, oggi ti giochi tutto. Troppo di tutto, troppo di tutto. Quanto sono diventati necessari i prodotti e i servizi che compriamo? Come sono cambiate le nostre abitudini di spesa e di vita a causa della crisi? Di nuovo in studio con Essere Avere, nel focus sui trend di questa settimana parliamo di consumi necessari. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Alle prese con un potere d'acquisto in picchiata e istanze sempre più forti legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, il mondo dei consumi è profondamente cambiato in questi mesi. Si aggiusta anziché ricomprare, è il boom del cosiddetto e-commerce, si fanno in casa molte cose, dal pane ai vestiti, la parola d'ordine è do it yourself, e si spreca sempre meno. Dall'altra parte aziende e brand si sono riposizionati, hanno ridotto le quantità, il prezzo, hanno cambiato le caratteristiche dei propri prodotti. C'è insomma un senso del limite che prima non c'era, e il modello di una crescita controllata inizia a farsi strada come ricetta per uscire dalla crisi e soprattutto per non ricascarci a breve una volta usciti. Patrizia. Sì, il concetto di limite è il concetto centrale, un po' come il termine crisi, da interpretare non solo però in senso restrittivo, riduttivo, ma anche come stimolo al cambiamento, alla reinvenzione, che è reinvenzione sociale, culturale ed economica. Certo è che stiamo attraversando un profondo rovesciamento anche cognitivo, cioè il passaggio dall'idea di crescita a quella di limite, quindi dall'infinito al finito. Sono diversi i punti di vista da cui osservare il limite, che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita contemporanea come individui e come consumatori, il limite tra reale e virtuale, tra l'umano e il non umano, tra l'io e l'altro, giustizia e ingiustizia, tra diritto e non diritto, civiltà e barbarie, eccetera. Ne scrive sapientemente Serge Latouche nel suo ultimo libro intitolato appunto Limite, uscito nel 2012 per Bollati Boringhieri. Persone, organizzazioni, mercati oggi devono cambiare per sopravvivere. La grande sfida è individuare e selezionare le soluzioni adeguate alla sopravvivenza, trasformando appunto i limiti, che sono certo un vincolo, in opportunità. Opportunità anche in termini di innovazione. Guardando il mondo dei consumi e delle nuove pratiche messe in atto dalle persone che stanno delineando nuovi paradigmi e nuovi comportamenti di consumo, compreso il non consumo, ne abbiamo già parlato, dal baratto al fai da te, vediamo come il concetto di necessario sta trovando espressione proprio in modo adattivo, in termini di soluzioni adeguate rispetto alla crisi e ai cambiamenti sociali in atto. Alcuni esempi dal mercato per capire. Donuts Vault di Chicago, una pasticceria che ha fatto della scarsità programmata il suo modello di business. Produce un numero limitato di ciambelle ogni giorno e quando le ha vendute a qualsiasi ora chiude. Quindi la quantità limitata, che diventa non solo garanzia di qualità ma una soglia oltre la quale quella produzione con quegli standard e quel tipo di retailing non può semplicemente semplicemente andare. Questo, come molti altri esempi, si possono iscrivere nella cosiddetta economia dell'abbastanza, di quello che abbiamo chiamato il good enough, cioè un'idea di consumo e di produzione di servizi e prodotti abbastanza buoni, innovativi quanto basta, con un buon rapporto qualità-prezzo, che preferiscono l'accessibilità all'eccellenza. Quindi dai device tecnologici ai servizi, dai prodotti commodity anche a quelli di lusso, questo ritorno agli elementi basilari della soddisfazione non è privativo, ma è proprio funzionale, è una rinuncia consapevole all'insegna della giusta dose di quel che mi serve. Nella ristorazione, per esempio, abbiamo il fenomeno dei secondi ristoranti, dei cosiddetti secondi ristoranti. Esattamente come le seconde linee del sistema moda, quelle più accessibili, abbiamo ristoranti stellati che aprono la loro versione bistrò, dove tutto, tranne la qualità del cibo, è un po' meno. Brand di alto di gamma come Pomellato nella gioielleria aprono a nuovi target con linee di prodotti realizzati con materiali meno preziosi ma compensati dal design di marca, insomma una sorta di new frugality che può essere legata appunto a nuove formule di low cost smart. Tra i must dei nuovi comportamenti virtuosamente necessari, non buttare nulla, quindi dal re-commerce che anticipavi, cioè rivendere. I consumatori oggi diventano sempre più rivenditori, vendono ad altri, ai pari, ma anche alle aziende in cambio di sconti sul nuovo, all'upcycling, aggiustare anziché ricomprare, insomma il nuovo protagonismo dell'usato. Nuova vita ai vecchi mobili anche per IKEA, su Hemma.it, la community di IKEA, dei mobili di seconda mano, una sorta di mercato di mobili usati in rete. Gli utenti acquistano oppure scambiano i mobili del noto marchio svedese, che in questo modo riprendono nuova vita e non vengono buttati. IKEA garantisce serietà e trasparenza della compravendita, non percepisce percentuali. Non si butta nemmeno il biglietto dei mezzi pubblici. Succede a Barcellona, si chiama T11, è un'iniziativa di condivisione promossa dalla Federazione di Associazioni di Vicini di Barcellona per sfruttare al massimo il numero dei viaggi contenuti nel carnet, che si chiama T10, che normalmente dà diritto appunto a 10 viaggi. Un'app dedicata consente di cedere l'ultimo viaggio ad un altro utente prima che scadano i 75 minuti di validità. Una delle nuove parole d'ordine diventata quasi un paradigma economico è resilienza, un termine che assume significati specifici diversi a seconda del contesto. È usata in ingegneria, informatica, psicologia. Indica la capacità di resistere e adattarsi. L'ha usata Obama nel suo secondo discorso di insediamento alla Casa Bianca. We have always understood that when times change, so must we. Abbiamo sempre capito che quando i tempi cambiano, anche noi dobbiamo cambiare. Che la fedeltà ai nostri principi fondatori richiede risposte nuove alle nuove sfide. Questa generazione di americani è stata testata dalla crisi, che ha rafforzato la nostra determinazione e dimostrato la nostra resilienza. Un decennio di guerra sta per concludersi. La ripresa economica è iniziata. Le possibilità dell'America sono infinite. Noi possediamo tutte le qualità che questo mondo senza confini richiede: giovinezza e impulso, diversità e apertura, una capacità infinita di rischiare e di sapersi reinventare. Patrizia, di resilienza, di dinamismo resiliente come ricetta anticrisi, si è parlato anche al forum di Davos, l'appuntamento che riunisce il GOTA dell'economia mondiale. Sì, resilienza è una parola che si sta facendo largo nel nostro vocabolario, vuol dire appunto capacità di reagire, di assorbire il cambiamento. Nella teoria dei metalli è l'elasticità, quindi assorbire anche energia e soprattutto restituirla, quindi una metafora di questo adattamento evolutivo di cui parliamo oggi, che riguarda tutti. Una risposta a livello individuale, per esempio al grande fenomeno del downsizing o downgrading, cioè l'idea di riduzione, che nella vita delle persone significa meno lavoro, meno guadagno, meno soldi, meno consumo, ma anche più tempo per le relazioni da dedicare alle dimensioni immateriali dell'esistenza. Nel mondo dei consumi significa interpretare il limite come sfida che sollecita la reinvenzione, e ci sono casi di aziende che si adattano al potere d'acquisto limitato, con sconti o confezioni ai prezzi ridotti o con nuovi modelli di business possibili grazie alla rete e all'abitudine al social shopping, agli acquisti di gruppo. Per esempio, l'hamburger di McDonald's oggi costa come un caffè. La multinazionale del fast food ha ridotto in Italia a 90 centesimi il prezzo del suo prodotto simbolo, scendendo sotto la soglia di un euro su cui si era assestato dal 2004. In un momento difficile come quello che l'Italia sta attraversando, afferma McDonald's, l'azienda ha deciso di dare un segnale molto concreto di vicinanza ai consumatori. Altro caso, Unilever, colosso anglo-olandese dell'alimentazione, della cosmetica e dell'igiene per la casa, si adegua all'Europa impoverita, come viene definita, con nuove politiche di marketing e la strategia delle micro confezioni, simili a quelle stabilite per i paesi asiatici emergenti. In Indonesia le mini confezioni di shampoo sono per esempio a 2-3 centesimi, in Spagna invece Unilever sta sperimentando la vendita di micro pacchetti del detersivo Surf da 5 lavaggi a un prezzo molto competitivo. Con questo piano di diciamo così miniaturizzazione delle confezioni dei prezzi, la multinazionale stima di aumentare i suoi guadagni dello 0,2%. Sul fronte della convenienza per i consumatori, le monoporzioni, che hanno un costo unitario di produzione più alto, come noto, impattano in realtà di più in termini di packaging e di fatto non sono un vero risparmio, ma, come opportunamente ci ricordano gli esperti di Retail Watch in un commento critico proprio a questa notizia, sono semplicemente una dilazione di spesa. Nuove idee di convenienza all'insegna del più si è meno costa, quindi del social shopping, è il caso delle carte sconti. Citiamo fra le ultime nate Amica Card, che promette risparmi fino al 50% in un network nazionale di oltre 50.000 strutture e attività commerciali, dalla cena al teatro, dall'acquisto di un regalo, una visita medica specialistica, dalle vacanze alle consulenze legali. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Stoccolma sui consumi necessari? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Filippa K è uno dei principali brand di alta moda made in Svezia, nato negli anni 70 e con negozi in tutto il mondo. Come altri storici marchi del lusso, è diventato oggetto di interesse per molti collezionisti appassionati di abiti vintage. Da qualche anno a questa parte la casa di moda ha deciso di cavalcare questa attenzione, aprendo una catena di negozi deputati esclusivamente alla vendita dei suoi capi usati. Si chiamano Filippa K Second Hand e vi si possono trovare vestiti e accessori da donna e uomo usati a marchio Filippa K. L'assortimento è costituito da ciò che le persone hanno precedentemente comprato nelle boutique del marchio e che per un motivo o per un altro non usano più. Chiunque può recarsi in uno di questi negozi e lasciare i propri vestiti in vendita, ottenendo il 40% sul ricavo. Il concept è perfettamente in linea con l'identità di questo marchio, che ha sempre puntato sull'alta qualità dei materiali e dei tessuti e su un design senza tempo. Grazie Alessia. Patrizia, si tratta in molti casi di prodotti e servizi imposti dalla crisi, ma che hanno poi trovato una loro ragion d'essere indipendentemente dalla crisi. È la fine della crescita senza limite, la ricetta per la ripresa. Può sembrare un paradosso, in realtà non lo è. Sì, abbiamo sentito Obama parlare di nuove risposte a nuove sfide. Questa è la vera scommessa del futuro. Futuro che vedrà paradigmi di crescita modulati sulle nuove esigenze delle persone e dei consumatori e soprattutto sui nuovi limiti. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione programmi, troverete questa e le altre puntate di Essere Avere. Veniteci a trovare anche sulla nostra pagina Facebook. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.